24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:16, 349-238-6666 per i vostri messaggi, parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Cominciamo a parlare di vacanze, giustamente. Ci si sta organizzando, c'è chi si è già organizzato. E chi magari voleva organizzarsi non può farlo. Non può farlo. Per quale motivo? E lo spieghiamo stamattina. Dobbiamo fare un passo indietro. È una questione, quella che poniamo stamattina ai nostri ascoltatori, di cui abbiamo già parlato esattamente 4 mesi fa, proprio a Soldi e dintorni, il 10 febbraio scorso. Perché? Perché dopo il bonus sociale, dopo quello energetico, complice anche la neve che in quei giorni ricopriva Milano, ma non solo, avevamo deciso di parlare di bonus vacanze, un'iniziativa che era stata annunciata dal governo qualche giorno prima. Bonus vacanze destinato a quelle famiglie al di sotto dei 35.000 euro di reddito annuo, a cui era stata aperta l'opportunità di richiedere ed usufruire appunto di questo buono da utilizzare nel corso dell'anno, con l'eccezione appunto dei mesi di alta stagione, per appunto coprire parzialmente le spese per la vacanza prescelta. E allora, qual è la novità di oggi? Che il lancio di questi bonus, che era previsto per aprile, è stato rimandato ancora una volta. Allora, come mai? Le ragioni di questo ennesimo slittamento, peraltro, ce le spiega stamattina il nostro ospite, dottor Antonio Centi, responsabile nazionale del turismo per l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Dottor Centi, buongiorno e grazie di essere a Soldi e Dintorni con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, magari c'era qualche famiglia pronta ad andare a fare richiesta di questo bonus. Cosa è successo? Perché ricordiamo che è un'iniziativa partita nel 2001 e che ancora non riesce... con la legge 135 istitutiva dei buoni vacanze. Sì, e siamo al 2009 e ancora non possiamo utilizzarli. Sì, perché poi quella legge dal 2001 fino al 2007, nella parte riferita ai buoni vacanze, era rimasta silente. Nel 2007, nel Comitato Nazionale del Turismo, per l'iniziativa dell'ANCI, si sblocca con il consenso di tutte le parti sociali e imprenditoriali e il ministro del tempo, che era Rutelli. Il 2009 sembrava, sì esatto, l'anno buono. Che cosa è successo adesso? Si fa la finanziaria del 2007, si recuperano i soldi che erano stati previsti inizialmente nel 2001. Fino a febbraio 2008, conferenza unificata da Elvibera. A quel punto passano dei mesi, perché c'è bisogno della registrazione della Corte dei Conti, che è stato abbastanza complesso, come nella tradizione forse degli accertamenti della Corte dei Conti. Si arriva all'ottobre 2008 con il provvedimento all'epoca era sottosegretario del turismo, oggi ministro, Brambilla, per andare alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio. A quel punto dovrebbe partire tutto, come giustamente annunciato anche da voi, come era nelle attese dei cittadini, tant'è vero che noi come ANCI, che facciamo parte di questa operazione in maniera fondamentale, avevamo già ricevuto una serie di segnalazioni di interesse da parte di vari comuni italiani, a cominciare dal comune di Milano. E che succede? Siccome nel provvedimento, nel decreto attuativo dei buoni vacanze, l'articolo 2 è previsto che si deve individuare su base nazionale l'ente gestore dei buoni vacanze da convenzionare con ANCI, previsto nello stesso articolo 2, si intendeva per ente gestore naturalmente l'ente che a quel punto aveva aggregato tutte le imprese, il sistema delle imprese italiane, che è la FITUS, Federazione Italiana Turismo Sociale, nella quale parte confluisce sia il Touring Club, il Confesercenti, Confindustria, Assoturismo, tutti quanti. Una sorta di ente coordinatore, insomma, di tutte le adesioni. Certo, ecco. Che peraltro aveva messo in campo anche un soggetto, come dire, imprenditoriale che si chiama Buoni Vacanze Italia. Però a quel punto è venuto fuori un altro soggetto che ha chiesto di poter partecipare, visto alla individuazione di ente gestore, che è l'Associazione per i diritti degli anziani, se non sbaglio. Sì, a quel punto è partita tutta la lenta procedura riferita alla individuazione delle procedure perché questo possa essere attuato. Si è fatto un bando nazionale al quale ha risposto naturalmente FITUS e Buoni Vacanze Italia, l'ADA naturalmente, c'è stata la verifica dei requisiti, si sono concessi ulteriori termini all'ADA che mancava di qualche requisito. Tutto questo comporta mesi, settimane, comporta una condizione abbastanza incomprensibile, se vogliamo. E quindi insomma dobbiamo aspettare ancora. Si è arrivati ad oggi, sembrerebbe, lo dico un condizionale grandissimo, sembrerebbe che proprio in questa settimana la commissione del bando dovrebbe definitivamente pronunciarsi sui requisiti dell'ente gestore. Ecco, benissimo, quindi potremmo avere, come dire, una novità risolutiva entro pochi giorni. Tra l'altro, a microfoni spenti, prima di partire con la nostra trasmissione, parlavo di questa questione con Alessandro Milan, che è sempre un po' maligno, infatti anche adesso mi guarda con una faccia strana, mi sta dicendo insomma cosa vorrà mai dire. No, perché dicevamo, insomma, è stato rimandato teoricamente a settembre e lui giustamente diceva, beh, non mi sembra molto corretto il fatto che comunque sia rinviato e quindi che venga superata la stagione estiva. In realtà è stato già inizialmente concepito questo strumento per concedere la possibilità di far vacanza a determinate famiglie, è stato concepito come uno strumento da non poter utilizzare nei periodi di alta stagione, giusto Centi? Sì, no, c'è una previsione esplicita dell'articolo 1 per l'erogazione dei buoni vacanze da destinare in favore delle fasce sociali più deboli nel settore turismo balneare al di fuori di alcuni mesi, come dire, caldissimi, che sono luglio e agosto. È stato proprio concepito come un provvedimento di carattere sociale, ma anche teso alla destagionalizzazione, che è uno dei problemi fondamentali dell'Italia. Certo. Allora, il fatto che ci sia stato questo rinvio perché deve essere individuato l'ente gestore del sistema buoni vacanze, in ogni caso non sono cambiati i criteri di assegnazione di questi bonus. Vogliamo ricordare rapidamente i criteri reddituali e magari cosa devono fare anche i cittadini interessati per poter usufruire di questi bonus? Sì, si va dal minimo intendo dire un nucleo familiare con una sola persona, quindi fondamentalmente i giovani che possono utilizzare i buoni vacanze, e questo veramente apre una prospettiva di turismo moderno italiano in competizione col turismo europeo che utilizza largamente i buoni vacanze. La Francia, i buoni vacanze sono utilizzati da 20 milioni di turisti. Dal singolo giovane che può avere un 45% di contributo statale su una spesa massima ammissibile di 500 euro, quindi una vacanza di 500 euro si ha un contributo di 45, il reddito deve stare da 0 a 10.000 euro. Bene. E fino ad un nucleo familiare di 4 persone, per esempio, con un reddito di 30.000 a 35.000 euro, che può avere un contributo fino al 20% su una spesa di 1.230 euro. Mm-hmm. Questi sono i due poli, diciamo così, del sostegno dei buoni vacanze. Dentro questi due poli ci sono una serie di articolazioni. Non so. Sì, infatti, per le famiglie di due componenti. Per nucleo familiare di tre persone, che è un po' il nucleo classico italiano, con moglie, marito, bambino, bambina. Tre persone con un reddito da 25 a 30.000 euro, anche qui 20% di contributo su 1.020 euro, oppure da 20.000 a 25.000 euro di reddito, egualmente 1.020 euro di spesa turistica, 30% di contributo. Mm-hmm. Quindi è un po' questa l'articolazione della contribuzione. Naturalmente questa opportunità è molto indirizzata anche nei confronti dei non abili, quindi giovani, nuclei familiari fino a 35.000 euro, ma anche portatore di handicap, quindi sono tre categorie molto importanti. Si è stimato infatti che potranno usufruire del sistema dalle 22.000 alle 25.000 famiglie nel nostro paese. Quest'anno, perché questo famoso procedimento che speriamo prenderà corpo con l'autunno, per quest'anno è finanziato con 5 milioni di euro. Esatto. Però devo già anticipare che il ministro Brambilla attualmente è interessatissima allo sviluppo di questa opportunità, ha già detto che se il primo esperimento troverà fertilità nella società, già immagina per il 2009-2010 di portare a 15 milioni di euro il contributo e soprattutto modificare il meccanismo, perché devo dire attualmente c'è un meccanismo perverso che i contributi vengono assegnati a chi prima arriva, a sportello, come si dice. Che non quindi non sarà come dire una... Sì, sarà un problema, infatti molti comuni che all'inizio del 2009 avevano avuto notizia di un provvedimento quasi immediatamente operativo, avevano già fatto delle domande e i comuni hanno ricevuto delle domande e noi come ANCI abbiamo detto di non tenerne conto, perché si creerebbe una condizione di dispar condicio praticamente. Dobbiamo ripartire al momento in cui finalmente si partirà con uno start che spara l'avvio a tutti quanti nelle stesse condizioni, però ci sono comuni che devono rimandare al mittente le domande. Quindi insomma potenzialmente questi 5 milioni di euro nel momento in cui tutto il sistema partirà potrebbero andare esauriti nel giro di pochissime settimane? Tenga conto, e questo è un contributo statale. Poi naturalmente già oggi i comuni sostengono grandissimi oneri per le spese sociali, che sono naturalmente classiche, però nelle spese sociali ci sono anche la quasi totalità dei comuni che assiste le persone anziane, in questo caso, a fare brevi periodi di vacanze, in questo caso termale. Quindi i comuni sostengono delle spese che si aggiungono ai 5 milioni di euro, quindi voglio dire il processo è complesso. Il vantaggio dei buoni vacanze rispetto alla fase precedente, fino a ieri, è che oggi il cittadino, mentre un eventuale sostegno comunale si deve indirizzare in una località individuata dal comune, turismo termale in gran parte, e quella è la località. Con le buone vacanze può scegliere su un catalogo di circa 2000 imprese turistiche che hanno aderito al principio delle buone vacanze, e quindi c'è una libertà di turismo maggiore, c'è cioè una condizione piacevole da parte degli interessati a scegliersi il posto dove vogliono andare. Dottor Centi, sento che lei è molto entusiasta di questo progetto, io adesso devo fermarla perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Certo. In ogni caso, intanto aspettiamo che sia pronto l'ente gestore, certo. Dopodiché ritorneremo naturalmente a parlare di questa iniziativa e spiegheremo nel dettaglio tutte le modalità con cui le famiglie possono aderire, visto che tra l'altro bisogna anche sbrigarsi perché le risorse termineranno abbastanza rapidamente, sperando naturalmente non in un ulteriore rinvio. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Arrivederci, buongiorno, Alessandro. Buongiorno. E allora, eccoci qua. Ma non ho la faccia maligna. Un po' malignetto sei, dai. Alle 12, Salva Danaio. Alle 12 ho fatto una bella cosa perché ho lanciato ieri la commissione di Massimo Scoperto. Ah, fantastico, sbagliata. Certo, hai parlato di dell'autovelox taroccato e clonato. Molto divertente. E allora ti porti avanti, quindi domani di cosa ti occupi? Ce lo dici sì, oggi? No. Fondi di pensione domani. Oggi ritorno sulla commissione di Massimo Scoperto, per carità del cielo. Oggi Massimo Scoperto, eravate in attesa da ieri. Che non è un nome e un cognome, ma arriva un altro balzello. Sono le 8:32 minuti, allora ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo le elezioni. In una nota ringrazia chi lo ha votato. È stata una vittoria, dice il Premier, malgrado una campagna tesa a colpirmi con tante calunnie. Ma all'interno del Popolo della Libertà c'è divergenza sul referendum elettorale che si terrà il 21 giugno. Berlusconi fa sapere che non lo appoggerà più come richiesto dalla Lega. Il presidente della Camera Fini replica: io andrò a votare in modo convinto. E ricordo che ne parleremo alle 8:45. La Corte Suprema americana ha dato via libera nella notte all'accordo Fiat-Chrysler, respingendo il ricorso presentato da alcuni fondi pensione dell'Indiana. Soddisfazione anche dalla Casa Bianca. La cronaca: all'alba di oggi un uomo di 40 anni ha ucciso la madre, ferito il padre che aveva tentato di difenderla a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. L'uomo ha poi chiamato i carabinieri ed è stato catturato. Per il calcio, stasera in Sudafrica l'Italia di Lippi è impegnata in un amichevole con la Nuova Zelanda, ultimo test prima dell'inizio della Confederation Cup. L'esordio del torneo sarà lunedì prossimo contro gli Stati Uniti. Tutto questo alle 8:34 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Non l'ho data tra le notizie perché ne parliamo ora, ma sicuramente la notizia farà discutere in questi tre giorni. Alle 11 sbarca in Italia il leader della Libia, Muammar Gheddafi. Roma è blindata. È già pronta la tenda a Villa Doria Panfili, dove Gheddafi riceverà tutti gli ospiti. Domani parlerà al Senato. Le polemiche oggi. Maurizio Caprara sul Corriere della Sera scrive: sono almeno due i colonnelli Gheddafi che arrivano oggi. Uno è il presidente dell'Unione Africana, l'altro è quello che per esempio nel 2003 ha concordato con Gran Bretagna e Stati Uniti lo smantellamento dei programmi per dotarsi di armi di distruzione di massa. L'altro è quello che fece il golpe nel 69, fece politica estera aiutando bande terroristiche e per molti anche oggi è un dittatore. Sergio Romano, buongiorno. Buongiorno. Ambasciatore, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera. La imbarazza, ci deve imbarazzare l'arrivo di Gheddafi in Italia? Ma devo dire che in politica internazionale chi si lascia imbarazzare non ne fa molta. Credo che occorra avere la pelle dura ed essere abituati a questo tipo di situazioni. Credo che anche altri paesi siano stati costretti a subire una sorta di umiliazione. La Francia, per esempio, nei confronti di alcune sue vecchie colonie, continua, per esempio, in Algeria ad essere trattata come responsabile di tutto ciò che di male è accaduto in quel paese. Quindi dobbiamo accettare le regole del gioco, che non sono certo simpatiche, ma comunque questo è il gioco e va giocato così. Definire Gheddafi un dittatore è un errore oppure lo si può fare? Ma vede, il problema non è se la Libia possa o non possa diventare una democrazia, se Gheddafi sia o non sia un ostacolo alla democrazia in Libia. Se la questione fosse in questi termini, se noi avessimo per così dire un partito democratico libico a cui fare riferimento con un progetto serio, beh, la questione si porrebbe in termini completamente diversi. Ma per la Libia il problema è un altro. La Libia o viene governata da Gheddafi nel modo che sappiamo, oppure diventa un altro pezzo di fratellanza musulmana nel Medio Oriente. Non dimentichiamo che Gheddafi oggi rappresenta, nonostante tutto, un baluardo contro l'islamismo radicale in Africa settentrionale. Non avrebbe mai accettato di smantellare il suo programma nucleare e il suo programma chimico, non avrebbe mai concluso l'accordo che sappiamo, con cui in qualche modo ha ammesso la responsabilità della Libia per l'attentato sull'aereo di Lockerbie, se non si fosse sentito insidiato a casa sua da una fratellanza musulmana, da un islamismo radicale che diventava sempre più minaccioso. Non dimentichiamo che è stato vittima potenziale di un certo numero di attentati. È per quello che in qualche modo si è spostato verso l'Occidente, che ha ricucito i suoi rapporti con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che ha anche con l'Italia cercato di chiudere, almeno per il momento, il vecchio contenzioso coloniale. Sì. Quindi non abbiamo scelte, voglio dire, non esiste una scelta democratica. Si può fare una manifestazione in occasione della visita di Gheddafi a Roma, recapitargli un manifesto e un proclama, ma molto più in là non è possibile andare. Beh, manifestazioni ce ne sono, ci sono proteste per la tenda, appunto, che forse questa è la cosa più di colore, insomma, chi protesta per la tenda. Ci sono alcune donne, visto che Gheddafi riceverà circa 700 donne, alcune ha detto no, non bisogna andare. C'è chi ha protestato anche in Parlamento. Io voglio salutare il senatore Marco Perduca. Buongiorno senatore. Senatore del gruppo Partito Democratico, ma dei radicali. Lei, senatore Perduca, è stato molto duro, credo anche su un punto che non piaccia ai radicali. Oggi anche Emma Bonino, sempre sul Corriere, fa una dichiarazione su questo. È pazzesco che Gheddafi domani, in qualità di presidente dell'Unione Africana, possa parlare nell'aula del Senato. Perché? Ma intanto non esiste un Parlamento in Libia, quindi non si capisce quale sia la reciprocità che noi dovremmo concedere a chi da 40 anni non chiede il parere dei propri, virgolette, cittadini relativamente alla leadership di un paese. Anche dal punto di vista del diritto internazionale, Gheddafi non può essere considerato un capo di Stato perché è una sorta di primus inter pares, guida spirituale oltre che politica di quel paese. No, quanto diceva l'ambasciatore romano poco fa, però spero che non fosse, diciamo, o comunque così all'interno dei dibattiti durante l'Unione Sovietica, perché altrimenti ci sono stati dei grandi azzardi quando si è deciso in qualche modo di sostenere la dissidenza 25, 30, 40 anni fa contro il regime sovietico. Stesso tipo di ragionamento che si continua ancora a fare relativamente a molti altri contesti. Il fatto che in Libia, e non lo diciamo soltanto noi radicali, credo che sia denunciato quotidianamente da tutte le organizzazioni internazionali per i diritti umani, ma anche da alcuni organi delle Nazioni Unite, quelle stesse che comunque trattano la Libia come trattano gli Stati Uniti e l'Italia, vengano violati quotidianamente tutti i diritti civili e politici, è un elemento da tenere in considerazione. Allora, un conto sono i rapporti tra governi e chiaramente nel diritto internazionale, nelle relazioni internazionali, salvo che non si sia in guerra, credo che sia sempre positivo ingaggiare qualcuno in un dialogo. Un conto però è coinvolgere le istituzioni legislative come la Camera e il Senato. Ma che dovrebbe fare? Perché Romano dice si faccia una manifestazione, si protesti, tutto questo è legittimo. Certo, voglio tanto, dire. Tanto nessuno ne scrive e ne parla, quindi serve ne stiamo poco. Parlando. Il governo arriva tra due ore, è da agosto scorso che si sta facendo noi opposizione anche contro la ratifica di questo trattato Italia-Libia. Il governo italiano, più di qualunque altro al mondo, dà esclusivamente alla Libia e non chiede in cambio nulla. Lo stesso governo italiano però è quello che alle Nazioni Unite ha chiesto che venga adottata, su stimolo dei radicali, e alla fine ci è riuscito, una risoluzione all'Assemblea Generale perché si sospendano le esecuzioni capitali. A Gheddafi non è stato chiesto né di applicare una moratoria sulla pena di morte, né di ratificare le convenzioni sui rifugiati, né di ratificare le convenzioni contro la tratta delle donne e per i bambini in conflitti. Tutti e quattro problemi presenti quotidianamente in quel paese. Allora, se il governo ritiene di non avere sufficiente potenza o comunque capacità contrattuale nei confronti di un dittatore, perché tecnicamente questo è Gheddafi, di certo non si capisce perché invece il nostro Parlamento debba essere coinvolto per dare una tribuna a chi è salito al potere 40 anni fa e vi è rimasto senza la possibilità per i suoi di poter dubitare dell'efficacia del governo, fatto... anche contro questo presunto assalto della fratellanza islamica. Il fatto che parli domani al Senato, tra l'altro credo alle 11, non le piace. E tra l'altro l'ambasciatore Romano parlerà anche alla Sapienza, ovviamente anche lì sono pronte le proteste, il movimento dell'onda a dire non deve parlare alla Sapienza. Là dove non fu fatto parlare il Papa, per esempio, parlerà Gheddafi alla Sapienza. Sì, devo dire che all'università la sua presenza mi scandalizza un po' più di quanto non mi scandalizzi al Senato. Non ah sì? Credo, perché? Perché non credo che questi discorsi al Parlamento debbano essere concessi soltanto sulla base della reciprocità. È giusto che Gheddafi veda come funziona un sistema democratico, è giusto che vada in un'aula dove esistono persone che saranno chiamate a votare anche sulla politica estera del governo Berlusconi, è giusto che si renda conto che un regime democratico ha dei pesi e dei contrappesi che il suo non ha, perché dovremmo privarci del diritto di mostrargli come funziona una democrazia? Tra l'altro è una delle poche cose che possiamo fare con una certa efficacia e credo che non dovremmo, ripeto, privarci di quel diritto. Gheddafi, ripeto, nei confronti di Gheddafi non abbiamo molte armi, anche perché abbiamo da lui, riceviamo da lui il 20% del nostro fabbisogno energetico. È un petrolio molto buono, lo so che al senatore Perduca questa cosa non piacerà, ma devo dire è un petrolio molto buono, ha il grosso vantaggio di essere molto vicino. La lezione di realpolitik ci sta facendo ambasciatore. Ed è anche il merito di essere abbastanza conveniente. Detto questo, poi la Libia bene o male dovrebbe decollare, soprattutto in una situazione in cui le casse dello Stato per qualche anno si sono riempite. Perché dovrebbe privarci del diritto di averla come potenziale mercato? Allora, e poi c'è un altro aspetto, credo, che occorra, di cui occorre tener conto. Noi abbiamo chiesto alla Libia qualche cosa che la Libia sembra avere concesso, vale a dire una certa collaborazione nella perlustrazione del Mediterraneo in un momento in cui la Libia ci stava ricattando con... Ma la questione della Sapienza perché non che è rimasta un po' in sospeso? Cioè la infastidisce che vada a parlare all'università invece? Ma vede, perché mi infastidiva anche che ci andasse il Papa, se devo dire la verità, perché ho l'impressione che le università... E guardi che faccio lo stesso discorso per la cerimonia accademica di Notre Dame, alla quale è intervenuto Obama con un discorso peraltro molto interessante. Ho l'impressione che le università più tengono le distanze dal potere politico, meglio è. Il potere politico va trattato dalle università con una salutare arroganza, tenuto fuori dalla casa. Va bene, io per il momento vi ringrazio. Seguiremo appunto la visita di Gheddafi. Ringrazio sia l'ambasciatore Sergio Romano, il senatore Marco Perduca dei Radicali, del gruppo del PD. Insomma, seguiremo anche, non so se ci saranno, immagino, vostre o manifestazioni o proteste. Insomma, già vi siete attivati. Come vede, siamo qui a parlarne per dire che secondo me è pazzesco che venga data questa tribuna del Senato a Gheddafi. Sono le 8:47 minuti e saluto il presidente del comitato promotore sul referendum, il professor Giovanni Guzzetta. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ben ritrovato. Insomma, ogni tanto facciamo il punto su questo referendum. Un giorno verrà scritta la storia di questo referendum, insomma, più lungo almeno nel concepimento, anche più accompagnato da polemiche. Il referendum è un referendum previsto per il 21 giugno, quando si andrà a votare il ballottaggio, ci sarà anche la possibilità per gli italiani di votare il referendum. Il referendum vuole in parte cambiare l'attuale legge elettorale. Che succede, professor Guzzetta? Allora, un po' di tempo fa Berlusconi aveva detto ma insomma il referendum è quello che se passa dà alla lista vincente, non alla coalizione, ma alla lista vincente il premio di maggioranza. La lista che prende di più ottiene un premio di maggioranza. Figurarsi se io, visto che sono del partito maggioritario, non sono a favore di questo referendum. E ieri Berlusconi ha cambiato idea. Ma guardi, se volessi fare un processo alle intenzioni potrei dire che Berlusconi ha cambiato idea perché ha visto che poi così straordinariamente forte il suo partito non è, e quindi può essere che questo premio di maggioranza se lo possa in prospettiva giudicare qualcun altro. Però non credo che sia questo, nel senso che non penso che sia questo il ragionamento. Il problema è un altro. Il problema è che io credo che Berlusconi, così come il PD, siano convinti che sia necessario fare un passo avanti nella politica italiana. Il problema è che Berlusconi è stato frenato da un vero e proprio ricatto imposto dalla Lega. Bossi ha preso, dopo le elezioni europee, ha preso Berlusconi metaforicamente per il collo e gli ha detto: io non vengo a votare i ballottaggi dove ci sono i candidati del centrodestra se tu appoggi il referendum. Perché sappiamo che la Lega è fortemente contraria, forse la forza politica, devo dire, professore, anche più coerente in questi anni, perché quanti politici le hanno detto, ma di tutti, l'ultimo è stato Berlusconi, ma un paio di mesi fa e oggi su Italia Oggi c'è la prima pagina di lei e di Pietro a braccetto con il titolo Il giochino anche di Pietro, che aveva detto l'ho appoggiato, un mese fa ha detto è vero, avevo appoggiato il referendum, ma adesso non lo appoggio più. Ma guardi, è certo che i partiti, diciamo così, molti partiti si sono comportati in modo opportunistico in base alle proprie convenienze, però quello che resta è che il problema è sempre lo stesso, cioè i partiti possono anche cambiare opinione, ma il problema dal punto di vista dei cittadini quali noi siamo è esattamente sempre lo stesso, cioè che c'è una legge elettorale che è la peggiore legge elettorale possibile, che tutti dicono di voler cambiare. Ieri ancora è stato detto faremo le riforme in Parlamento, però io non so quanti italiani credono dopo 30 anni che in Parlamento si possa fare qualcosa, perché questa legge conviene alle forze politiche perché consente loro di nominarsi tutti i parlamentari e conviene alle forze minori perché mantiene molto alto il loro potere di veto, il loro potere di condizionamento, come abbiamo visto ieri da parte della Lega nei confronti di Berlusconi. Quindi è un meccanismo che non sarà modificato in alcun modo, così come non è stato. Se il referendum non passerà, noi ci terremo questa legge per l'eternità, anche perché ci sarà qualcuno che si precipiterà a dire che gli italiani non lo hanno votato questo referendum perché sono contentissimi della legge che c'è e del sistema politico che c'è. La verità è un'altra, la verità è che su questo referendum non c'è stata pressoché nessuna informazione, se ne sente parlare, ma la maggior parte degli italiani non sanno di che si tratta, non c'è stata data l'opportunità di spiegare, le tribune politiche che già sono normalmente noiose sono state fissate alle 5 del pomeriggio quando alla televisione ci stanno solo i bambini e forse qualcuno che non è andato a lavorare, insomma c'è stata da parte dell'establishment, come si diceva una volta, sì, della casta, come si dice più di recente, il tentativo di silenziare. Ma le chiedo, molti politici che appunto, perché secondo lei per convenienza, ha detto per calcolo opportunistico, forse molti non hanno capito, cioè questo fatto spesso si è detto, attenzione, che se passa il referendum viene abrogata la parte della legge elettorale per cui si dà il premio di maggioranza alla lista vincente, vuol dire che chi ha, che ne so, il 30%, la lista che ha il 30%, quella che ha un voto più degli altri, a quella scatta automaticamente il premio di maggioranza, che credo sia il 55% dei seggi in Parlamento, no? Cioè si dice ma attenzione, cioè è una cosa troppo premiante, quasi addirittura da dittatura per una lista. Ma io non credo sia questo, io credo che sia, come dire, una pigrizia e anche una comodità del sistema attuale. Il sistema che viene fuori al referendum è un sistema che costringe tutti a rischiare. Si può vincere, si può perdere e bisogna mettersi in gioco. E rispetto a una politica che non si mette in gioco, che è in condizione di nominarsi tutti i parlamentari, che ha margini di manovra, di mercanteggiamento, di scambio, di negoziato, di ricatto, insomma quello che vediamo ogni giorno. I giornali sono pieni di discussioni sugli equilibri dentro le alleanze, sul fatto che qualcuno tira la giacca di qua, qualcuno tira la giacca di là, gli italiani non capiscono più assolutamente nulla e le politiche, quelle grandi politiche che ci sarebbe bisogno, nessuno le fa. Senta, ma adesso sinceramente la percentuale che si possa raggiungere il quorum il 21 giugno, dove ripeto si va a votare per i ballottaggi, però uno può anche decidere per esempio di non prendere la scheda per il referendum, oppure si va a votare. Già c'è stato l'astensionismo ad alti livelli al primo turno e alle europee. Come pensate di ottenere il quorum? guardi, il problema è molto semplice. Quando i cittadini sono informati, sostengono il referendum. Io ho fatto questa esperienza decine di volte andando a parlare in giro. Iniziavo le riunioni con le persone che mi dicevano non abbiamo capito nulla di questo referendum, e le riunioni si concludevano con un sostegno al referendum, anche diciamo in luoghi ostili. E il problema è sempre là, è l'informazione. Se ci sarà l'informazione, noi abbiamo fatto persino un ricorso alla Corte Costituzionale per un problema di informazione. Basta aprire le televisioni e si vede che, diciamo così, il tema è trattato o nulla o tangenzialmente, comunicando ai cittadini semplicemente qualcosa di incomprensibile. E ovviamente se i cittadini non comprenderanno, non avranno manco il dubbio se andare a votare o no, non ci andranno, punto e basta. Staremo a vedere. Non so se è tra le letture che lei gradisce al mattino, ma oggi La Padania titola referendum fregatura da non votare, l'Unità invece titola grana padana, proprio a sottolineare questo. Le piace, guardi, le piace più il secondo, mi pare di capire. Io penso questo, che oggi un cittadino è in condizione di percepire molto chiaramente quale sia l'ostilità nei confronti di questo referendum. È in grado di percepire chiaramente perché questa informazione sul merito del referendum è molto scadente e scarsa, soprattutto da parte del servizio pubblico. Se uno mette in fila i partiti che sono contro questo referendum, la Lega, l'UDC, l'Italia dei Valori, i partitini dell'estrema sinistra, eccetera, si rende conto che quella è lo schieramento di coloro che non hanno una forza propria per candidarsi alla guida del governo e che un po' come i parassiti stanno lì pronti a cannibalizzare l'azionista di maggioranza, diciamo così, della coalizione. È la vecchia storia. In questo modo possiamo essere soddisfatti nei prossimi mesi, ma l'Italia non va da nessuna parte. Nessuna democrazia che conta e che funziona, succedono queste cose, si vive di ricatti e di piccole spartizioni, insomma. Allora, io, professore, intanto la ringrazio, professor Giovanni Guzzetta. Noi l'informazione per quello che possiamo, insomma, la faremo, se non altro a dire, a ricordare, appunto, il 21 giugno si vota anche per il referendum che vuole abrogare una parte della legge elettorale, modificare una parte della legge elettorale. L'informazione poi effettivamente uno deve anche un po' purtroppo andarsela a recuperare quando, laddove non ci sono, in maniera massiccia. Comunque la ringrazio, da qui al 21 insomma faremo il dovere di informare tutti gli italiani su questo, favorevole o contrario o no. Allora, tra poco Giuliano Ferrara parlerà sempre degli strascichi del voto, soprattutto per quel che riguarda la sinistra radicale, che sapete non ha passato il quorum del 4%, dunque fuori anche dal Parlamento europeo. E ringraziamenti da Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domattina.